Dai ristoranti egiziani si vede il blu bianco di Reykjavik. Scappavano in bicicletta sull'autostrada burro di cacao. Footlooker, Haribo, scacchiera, portati le scarpe da vela. Maioko ed Adelaide vengono nelle calze a rete, due bombolette, tre bustine di camomilla ed una t-shirt dell'uomo tigre. Gonfio e morto sozzo al nevischio ed il parco ex Aria Pozzi, le nostre dita sporche di pennarelli. Ed io sono brillata e tu sei brillata. La luna si legge vaghe indossa indie pop lunette. L'Africa nelle cicche, i pullover Ivy League. Baciami contro tutti i ponti e mordimi la collana e le perle. Il cielo alle sette era polpa, anguria, brillarella.